Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Martedì 15 giugno, buongiorno e bentornati di nuovo a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, sempre su Liberi Dentro ed Uradio e TV. Siamo sempre su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. Buongiorno anche ad Antonella Cortese. Ciao Caterina, buongiorno a tutti. Oggi vi riporto una notizia che è uscita su tutti i giornali nazionali e anche internazionali. Mafia, il caso Brusca, la legge e il valore dei pentiti, leggo da Repubblica a cura di Giuseppe Pignatone. E perché i collaboratori di giustizia rimangono a oggi uno strumento fondamentale per conoscere i clan dall'interno ed essere così nelle condizioni di meglio contrastarne le attività criminali. E la definitiva scarcerazione, i primi di giugno, di Giovanni Brusca ha suscitato certamente un dibattito molto vivace nell'opinione pubblica e reazioni anche molto negative, specialmente tra alcuni familiari delle vittime dei delitti di cui egli si è riconosciuto colpevole. La cronaca e l'opinione pubblica ricorda Giovanni Brusca come non solo come il killer di Giovanni Falcone, ma anche come l'uomo che ha ammesso di aver sciolto nell'acido Giuseppe Di Matteo e che per anni è stato il braccio destro di Totò Riina e poi collaboratore di giustizia. Ed è proprio grazie a questa collaborazione che la sua condanna è stata ridotta e che lui ha potuto lasciare il carcere di Rebibbia per fine pena, anche se per 4 anni sarà in libertà vigilata. Caterina, tra le varie reazioni che ci sono state, che cosa hanno commentato le famiglie delle vittime? Ti riporto cosa dice Maria Falcone, la sorella del giudice assassinato a Capaci. Lei ha correttamente commentato questa notizia dicendo: umanamente è una notizia che mi addolora, però questa è la legge, che peraltro ha voluto mio fratello e quindi va rispettata. Perché, vi ricordo, in effetti Brusca è stato scarcerato perché ha interamente scontato la pena massima di 30 anni di reclusione infittagli al posto dell'ergastolo, in quanto collaboratore di giustizia. Secondo la legge, quanto aveva previsto, la legge 15 marzo 91, che oggi compie 30 anni, approvata 2 mesi prima dell'arrivo di Giovanni Falcone al Ministero della Giustizia, ma è dallo stesso Falcone ispirata fortemente e voluta sulla base dell'esperienza palermitana, a cominciare dalle dichiarazioni nel 1984 di Tommaso Buscetta. Negli anni precedenti erano stati approvati ben 10 provvedimenti che prevedevano benefici e agevolazioni sempre più ampie per terroristi che decidevano di collaborare con lo Stato. Si parla però di terroristi in realtà e non di mafie. Infatti nulla era stato ancora deciso per la mafia, forse nel convincimento errato allora che per i crimini politici si potesse sempre ravvisare una scelta ideologica non ipotizzabile nel caso dei mafiosi. Oltre a questo, una ragione più grave pesava il fatto che mentre il terrorismo era visto come un pericolo mortale per la Repubblica, nell'opinione pubblica di allora mancava la consapevolezza della gravità rappresentata dalla mafia. Certo, una miopia che però è stata ridotta con la legge, giusto? È così? Sì, infatti la legge del 1991 è invece determinata proprio da questa consapevolezza, all'epoca che è patrimonio di pochi, è maturata di fronte alla serie veramente sterminata di omicidi di esponenti delle istituzioni in Sicilia in quegli anni. E fu così che 30 anni fa vide finalmente la luce quella disciplina complessiva dei benefici per mafiosi che decidevano di collaborare con la giustizia. La legge oltretutto fa chiarezza anche sui termini e sulle ragioni di questo trattamento premiale, cioè non è in gioco un ravvedimento ideologico, religioso o morale, si tratta di un contratto tra lo Stato e l'aspirante collaboratore che si impegna a riferire ciò che sa dell'organizzazione criminale. A 30 anni dall'approvazione di questa legge va riconosciuto che ha raggiunto il suo scopo. Centinaia di capi e gregari di Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra, mafie pugliesi hanno deciso di collaborare, consentendo di far luce sui numerosissimi delitti. Particolarmente importanti in questo percorso sono state anche le dichiarazioni di personaggi apicali, tra cui lo stesso Giovanni Brusca. Quindi questo contesto, scrive l'articolista Giuseppe Pignatone, non può essere dimenticato di fronte alla pur comprensibile reazione emotiva dei familiari delle vittime. Quindi massimo rispetto dunque per le accorate reazioni delle famiglie colpite dal lutto per mano mafiosa, ma come ha detto Maria Falcone, lo Stato deve rispettare per primo le leggi che emana. Eh sì, è così. Senti, Caterina, continuiamo con Snoop Dogg anche oggi? Continuiamo con Snoop Dogg e ascoltiamo The Next Episode. It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Da da da da. You know what happened with the D-R-E. Yeah, yeah, yeah. You know the West Coast is back for all you suckers. Whoa. Suckers. So put something in the air. Place it up. Put it in the air. Yeah. Suck, Snoop. Top dog, fight them all. Yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CBT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a f- when she crept in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this mother, just a swank in my hair. Trick, quit talking, crip walk if you down with the set. Take a f- put some grip and take this f- on this jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if you happen to get cracked, trick, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the S, you'll be relieving your stress. It's the one and only D-R-E. Dr. Dre, Lil Buck. You know I'm mobbing with the D-O-double-G. Straight off them killer streets of CPT. King up the beach, you ride to him in your fleet. Hood, whoop the field, rolling on dubs. How you feel? Whoop-de-whoop. What? Dre and Snoop hitting cumblers in the line. With Doc in the back sipping on... Bentornati su Liberi Dentro, sempre sulle note rap di Snoop Dogg. Ora parliamo di cambiamento climatico, vero Antonella? Sì, sì, parliamo di un problema che ci sta coinvolgendo ormai da un bel po' di tempo e che in futuro diventerà sempre più importante. Infatti, a causa del rapido riscaldamento globale, gli eventi meteorologici estremi, cioè forti piogge, siccità, ondate di caldo, tempeste tropicali, stanno diventando sempre più imprevedibili, intensi e frequenti. E ovviamente aumentano il rischio di ulteriori calamità come inondazioni, smottamenti, erosioni, incendi, desertificazione. E allo stesso tempo l'innalzamento del livello del mare sta accrescendo le inondazioni costiere, e l'erosione, la salinizzazione del terreno e quindi non si può più coltivare, e il pericolo di inondazioni permanenti nelle aree a bassa quota. E questi cambiamenti che effetto hanno sulle popolazioni? L'effetto è devastante in realtà, perché le comunità vulnerabili stanno già subendo l'impatto della crisi climatica sul settore alimentare, su quello idrico e sui terreni coltivabili e sugli altri servizi ecosistemici necessari alla salute umana, al sostentamento, agli insediamenti e alla sopravvivenza in realtà. E tutto ciò ovviamente colpisce soprattutto le donne che si fanno carico della famiglia, si fanno carico proprio della sussistenza, i bambini, gli anziani, le persone con disabilità e le popolazioni indigene. In 7 dei 10 paesi più vulnerabili e meno preparati ad affrontare i cambiamenti climatici è in corso un'operazione di mantenimento della pace o una missione politica speciale, e gli effetti del cambiamento climatico possono esacerbare i conflitti e gli altri fattori di stabilità. Quindi veramente tutto è messo in seria discussione e i cambiamenti climatici possono veramente esacerbare queste situazioni già precarie. Ma l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, cioè l'UNHCR, è un'agenzia per la protezione dei rifugiati. E perché allora dovrebbe essere coinvolta nella risposta alle migrazioni forzate derivanti dai cambiamenti climatici? È coinvolta, Caterina, perché in realtà indirettamente dovrà prendere posizione rispetto a questa cosa, perché ci saranno delle migrazioni climatiche. Non esiste ancora in realtà la definizione del migrante climatico, non c'è ancora questo riconoscimento, però proprio l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati sta lavorando anche in questo senso. E poi in qualità di agenzia per la protezione dei rifugiati, nel loro mandato rientrano tutti coloro che sono costretti a cercare riparo in un altro paese a causa di conflitti o persecuzioni. Certo, non è una cosa, diciamo, scontata o comunque non è direttamente responsabile il cambiamento climatico, ma sicuramente un elemento di, un aggravante, ecco, mettiamola così. Complica di fatto l'accesso ai mezzi di sussistenza, se ci pensi, e accresce le pressioni sul sistema educativo e sui servizi sanitari che sono già precari in molte parti del mondo. E infatti ti volevo chiedere in quali parti del mondo si può osservare già questa interazione tra cambiamento climatico, conflitti e migrazioni. Guarda, la regione del Sahel è uno degli esempi più evidenti di come il cambiamento climatico interagisca negativamente con altre tendenze globali. Infatti l'area mostra un massiccio aumento della popolazione che, secondo le previsioni, addirittura raddoppierà nei prossimi 20 o 30 anni. Allo stesso tempo, però, la Banca Mondiale ha rilevato un ulteriore calo della produttività dei territori pari al 30-40%. Questo è un problema perché da una parte, come vedi, c'è un aumento della popolazione e dall'altra una diminuzione della produttività del suolo, oltre alle questioni di governance. E quindi è importante migliorare la nostra capacità di anticipare l'impatto del cambiamento climatico nelle varie regioni tra 5, 10, 15 anni, in modo poi da trovare rimedi, da creare programmi per cercare un attimo di anticipare le catastrofe naturali. Un'ultima cosa, Antonella, il termine rifugiato climatico è qualcosa di cui si sta parlando molto negli ultimi anni. E quale forma di protezione è prevista per coloro che sono costretti ad andare in un altro paese? Caterina, la stragrande maggioranza delle persone che fuggono a causa degli stravolgimenti del clima rimane entro i confini dei propri paesi. Quindi sfatiamo il mito che tutti scappano dai propri paesi, perché in realtà molti cercano di restarci nei propri paesi. Nel corso degli anni, proprio l'Alto Commissariato di cui stiamo parlando ha svolto un ruolo importante nel sostenere lo sviluppo di leggi e di politiche applicabili agli sfollati interni. A livello internazionale, regionale, nazionale e subnazionale. E l'obiettivo è quello di rafforzare la resilienza nazionale e la capacità di fornire sostegno alla popolazione per evitare che di fatto sia costretta proprio ad emigrare e quindi di lasciare le proprie terre. Tocca a te lanciare la seconda traccia. Sì, restiamo con Boubacar Traoré, che è il nostro bluesman maliano, con la canzone Ben Decadi. A voi. Unity is strength. Unity is strength. How we get here? Where we going to? Ain't got no unity. What you gonna do? What you gonna do? So long, so long ago, ancients did say, man, know thyself. Come what may. Tell me what went wrong to lead us today. What went wrong? Don't dig one pit, always dig two. When you dig a pit for your brother. Rieccovi, bentornati su Liberi Dentro Edu Radio. Oggi siamo sempre con la nostra Aurora Dall'Oglio, operatrice per CEFAL presso lo sportello di esecuzione penale interna. Allora, intanto buongiorno, bentornata. Grazie, grazie, buongiorno a te e a tutti. L'ultima volta abbiamo detto che la finalità dell'impegno di Cefalo Emilia Romagna rispetto alle persone in esecuzione di pena, adulte e minori, è sostenere l'occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro, accompagnando le persone recluse e le persone in esecuzione penale esterna in percorsi strutturati che, attraverso appunto la formazione e il lavoro, ne favoriscano il reinserimento sociale e anche il percorso lavorativo. Quindi, per accompagnare le persone al lavoro, la prima cosa che mi viene in mente è il tirocinio. Ma che cos'è un tirocinio per CEFAL? Sì, questa è un'ottima domanda. Allora, i tirocini intanto, giusto per fare una mini introduzione a cosa sono degli strumenti, dei dispositivi normati dalla Regione Emilia-Romagna attraverso una legge del 2019, la legge 1 del 2019. Che consistono sostanzialmente in delle attività di avvicinamento al mondo del lavoro. Avvicinamento al mondo del lavoro attraverso l'inserimento in aziende, cooperative, insomma, realtà produttive del territorio che accolgono delle persone di mille tipi diversi, tra cui anche detenuti, all'interno delle loro attività e sostanzialmente le persone lavorano e allo stesso tempo gli viene data l'opportunità di essere formati rispetto a quel lavoro specifico, insomma, che andranno poi a fare. E il carcere può accedere a questo tipo di attività grazie al fatto che i detenuti vengono considerati persone in condizioni di svantaggio ai sensi della legge 381 del 1991, per cui rientrano in quelle categorie di persone svantaggiate che possono accedere all'attività di tirocinio formativo. Il tirocinio rappresenta per CEFAL, ma in generale, a mio avviso, un'opportunità sia per le persone che vi accedono, quindi per i tirocinanti, nel senso che è un'opportunità di avvicinarsi al mondo del lavoro, entrarci, fare delle prove generali, diciamo, e in un contesto però abbastanza protetto, nel senso che non si è da soli con il datore di lavoro e basta, si è in affiancamento appunto anche al CEFAL, che è l'ente promotore in questo caso. E l'opportunità però è anche ovviamente per le aziende che si ritrovano a poter osservare e formare una persona da zero, sostanzialmente senza nessun tipo di costo, dal momento che i tirocini vengono finanziati dalla regione, appunto. Ecco, Aurora, e allora chi vi può accedere al tirocinio e in che modo? All'interno del carcere l'accesso ai tirocini viene indicato da parte dell'area trattamentale, nel senso che ci sono tutta una serie di requisiti che i detenuti devono avere, che riguardano ad esempio la durata della loro pena, il tipo di reato, il loro comportamento all'interno, la loro aderenza al piano trattamentale, diciamo. E, per cui una volta che ci sono tutte queste condizioni favorevoli, l'educatore del detenuto riporta nell'equipe trattamentale che si tiene ogni settimana la proposta di iniziare un percorso per questa persona, che si può tradurre in un percorso di articolo 21 o di semilibertà, che sono quei dispositivi legali che permettono alle persone detenute di uscire dal carcere per svolgere attività lavorativa o anche sanitaria, se si coinvolge ad esempio il CERT, e rientrare la sera, ok? E una volta che l'equipe approva questo tipo di provvedimento, di solito si fa un colloquio con l'azienda ospitante, che nel frattempo il CEFAL si occupa di identificare, e si cerca di capire un attimo come procedere, nel senso si definiscono gli orari, eccetera. Se tutto va bene, poi si va avanti. Ecco, il magistrato di sorveglianza deve poi ovviamente approvare questo piano di trattamento. Aurora, siamo a metà della nostra chiacchierata, che musica lanciamo? Io ci tengo a promuovere questo progetto che si chiama The Prison Music Project, che è un progetto nato nel 2010 attraverso una visita a una prigione, sempre la prigione di Folsom Prison, che è la stessa di Johnny Cash, di un artista che si chiama Zobek Binder, che da questa visita, che doveva essere semplicemente una giornata di incontro con i detenuti, è nato poi un progetto decennale di laboratori musicali, di scrittura e di composizione vera e propria, che si è tradotto poi in un album uscito nel 2020, proprio un anno fa, che si chiama Long Time Gone, in cui questa artista, assieme ad altri artisti, ma soprattutto a una decina di detenuti reclusi presso questo carcere, ha inciso quest'album che, a mio avviso, è di una potenza devastante. E in particolare questa prima canzone che vi presento si chiama Monster, è un testo veramente potente, in cui a un certo punto si dice: non mi è mai stata data una possibilità. Cioè, sono un mostro, non mi è mai stata data una possibilità. E secondo me è un po' quello che noi vorremmo fare, dare una possibilità attraverso i tirocini di inserirsi in un tipo di contesto diverso, magari da quello che ha portato poi la persona ad entrare in carcere. Rieccoci, bentornati sulle note di Monster dei The Prison Music Project, di cui ci ha parlato ora Aurora. Siamo sempre con te, Aurora, per parlare dei tirocini per quello che riguarda l'esecuzione penale interna, lo sportello operativo di Cefal. Quali sono i fattori, se ci sono, che determinano la buona riuscita di un tirocinio, e se conosci anche qualche storia che è andata a buon fine, che sai, che conosci, e alla fine ha funzionato il tirocinio e la persona è riuscita a trovare lavoro? Certo, rispetto alla buona riuscita mi viene da pensare che ci sono sicuramente alcune congiunzioni astrali che devono essere favorevoli, ma a parte gli scherzi, a parte le congiunzioni astrali, diciamo che ci deve essere una collaborazione da parte di tutti gli enti coinvolti. Chiaramente l'azienda deve avere una qualche flessibilità rispetto alla situazione in cui si trova la persona che accoglie il tirocinio. Viene da pensare, ad esempio, se la persona deve recarsi in udienza, se ci sono delle assenze giustificate che deve svolgere per forza per la condizione in cui è. Chiaramente l'azienda deve essere in grado di gestire questa cosa. Il tirocinante chiaramente deve fare la sua parte, deve essere una persona pronta a rimettersi in gioco, e prendiamo anche la nostra responsabilità, insomma l'ente promotore del CEPAL, a mio avviso, deve essere in grado di stare nel mezzo e mantenere appunto i rapporti tra l'azienda, il detenuto e il carcere. Noi abbiamo avuto dei casi di persone che sono state assunte in seguito a un tirocinio, in particolare una ragazza un paio di anni fa ha svolto un tirocinio prima finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, poi ha seguito un altro tirocinio pagato dall'azienda presso cui lei stava svolgendo questo tirocinio e in seguito è stata poi assunta e a tuttora lei è assunta presso questa azienda mentre lei è uscita in affidamento al lavoro e ora è completamente libera. Ok, grazie mille anche per questi racconti, magari approfondiremo la prossima volta. E l'ultima canzone di oggi? E vi presento sempre del Peso Music Project, la canzone Long Time Gone, che dà poi anche il titolo all'album, che invito tutti quanti ad andare a scoprire. It's funny, making me feel so low. Remember the good book says, you gotta reap what you sow. You've been bragging to your friends about treating me this way. Remember, darling, every dog has its day. Eccovi, anche oggi abbiamo avuto con noi la testimonianza di Aurora Dall'Oglio, operatrice di Cefal all'interno dell'esecuzione penale interna al carcere della Dozza di Bologna. Noi ci ridiamo appuntamento tra poco con le nostre rubriche, oggi avremo i dialoghi sulla cittadinanza, sempre con un ospite, e vi ricordo sempre di scriverci redazione liberi dentro @gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata via San Mauro 2 40 136 Bologna per tutte le vostre domande, i vostri dubbi e anche i vostri suggerimenti alle puntate. Ringrazio sempre Antonella Cortese e Pasquale Pitagnello sempre con noi al montaggio delle nostre puntate. A domani, buona giornata a tutte e tutti. Liberi Dentro e Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.